Cerotti ci parla invece sullo Stato di diritto e la scienza giuridica italiana. È ben nota la temperie politico-costituzionale degli anni Ottanta del secolo scorso, quando la giuspubblicistica italiana accolse dalla Germania, con le opere dello Gneis, del Bär, dello Stein, il tema dello Stato di diritto. Erano gli anni della polemica della destra, dopo il suo passaggio all'opposizione contro il parlamentarismo, della faticosa riforma della legge sulla giustizia amministrativa del 1865, della nascita delle moderne università, dei saperi specialistici disciplinari e delle nuove figure di professori universitari alla tedesca, istituzionalmente dediti all'attività di ricerca all'interno delle università. Furono i giuristi universitari, tramite l'elaborazione sistematica consentita dalle nuove discipline specialistiche, a tradurre in concetti e in istituti positivi l'ideologia dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto in Italia risultò frutto esclusivo del lavoro teorico dei nuovi giuristi universitari. La riduzione del potere politico al potere giuridico, la giuridicizzazione dello Stato, la sottoposizione al diritto dello Stato come persona giuridica titolare della sovranità, come organizzazione, come soggetto di volontà e di rapporti con il cittadino, la subordinazione di quei rapporti a norme giuridiche conoscibili e certe, garantite da procedimenti amministrativi e giurisdizionali, erano questi i principi dello Stato di diritto che i giuristi italiani recepirono sullo scorcio del secolo scorso e tentarono di trasferire nella rappresentazione dottrinale e nella realtà storica delle istituzioni dello Stato liberale italiano. Che il concetto dello Stato di diritto potesse già apparire in età giolittiana a singoli studiosi come Luigi Raggi, un retaggio ormai inutile del liberalismo ottocentesco, perché incapace di dar conto, con l'avvento dello Stato pluriclasse, che con Giolitti già si delineava, di istituzioni volte ad assicurare l'eguaglianza in senso sostanziale dei cittadini tramite l'erogazione crescente di prestazioni e di servizi, e a maggior ragione sembrasse durante il ventennio fascista ad altri giuristi quali Carmelo Caristia una vecchia formula politica liberale vacua, equivoca, inconsistente, non toglie che la fede nelle virtù conoscitive e nella realtà storica di quella formula abbia resistito nella scienza giuridica italiana per tanta parte di questo secolo. Il fatto è che la locuzione Stato di diritto contiene un valore connotativo perfettamente in grado di cogliere la realtà istituzionale dello Stato legislativo liberale e capace di definire un principio essenziale anche del successivo Stato amministrativo. Si tratta del principio di legalità e del criterio di esso speculare del formalismo giuridico. Sappiamo che nello Stato di diritto liberale, segnato dalla centralità del rapporto tra individuo e Stato, dalla separazione tra società, tra Stato e società civile, dalla grande dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato, dal dualismo tra autorità pubblica e libertà private, politiche e civili, i pubblici poteri, le pubbliche amministrazioni svolgono precipuamente un'attività di limitazione e di intervento nei confronti della libertà e della proprietà, manifestazioni principali dell'autonomia privata. Ein Griff in Freiheit und Eigentum. E proprio come il regolamento di confini tra autorità pubblica e libertà privata nasce il diritto amministrativo. Si tratta di un diritto bipartito, come è stato scritto, è volto a garantire i diritti dei cittadini verso i pubblici poteri e insieme ad assicurare le prerogative della pubblica amministrazione contro le interferenze dei cittadini e del giudice. Ha il suo baricentro nel giudice amministrativo e nei controlli, vale a dire nel principio di legalità. Con l'avvento dello Stato pluriclasse, con la trasformazione dello Stato di diritto liberale di stato amministrativo, con la prevalenza assunta dalla cosiddetta attività sociale dello Stato sull'attività giuridica, è noto che il fine dello Stato diviene l'erogazione di prestazioni e servizi. Leistungsträger, naturalmente il rinvio all'opera del Fausthof, la teorizzazione di Verwaltung als Leistungsträger, e il baricentro del diritto amministrativo tende a spostarsi dai controlli all'efficienza e alla produttività delle pubbliche amministrazioni, alla regolazione dell'organizzazione e delle funzioni amministrative, al principio di eguaglianza in senso sostanziale. Ma anche dopo il tramonto dello Stato liberale e il sorgere dello Stato amministrativo, dopo la perdita in molti paesi dell'Europa continentale delle libertà politiche, ciò che rimaneva della libertà privata, della libertà civile, dei diritti civili, non rinviene altra tutela nei confronti del potere politico e dell'esercizio dei poteri pubblici che il principio di legalità e il formalismo giuridico. Ci riferiamo in particolare alle vicende della dottrina giuridica e della magistratura ordinaria amministrativa italiana durante il ventennio fascista. E il principio di legalità e il formalismo giuridico trovano nell'ordine concettuale pandettistico, adottato dalla nuova scienza giuridica universitaria, le categorie idonee a garantirne l'affermazione e a conferire loro la forza esplicativa adeguata a rappresentare scientificamente lo Stato liberale e le sue trasformazioni tra 800 e 900. In una riflessione dedicata al concetto dello Stato di diritto e alla scienza giuridica italiana, ci pare dunque che la domanda fondamentale che dobbiamo porci e quale significato abbia assunto e che ruolo abbia svolto nello Stato di diritto liberale la sequenza costituita dal principio di legalità, dal formalismo giuridico e dalla pandettistica. Ebbene, se quello che politicamente si indica come divisione dei poteri o delle funzioni, giuridicamente come principio di legalità, è il principio cardine dello Stato di diritto liberale, allora il rapporto di conformità formale o di compatibilità con la legalità, il criterio genericamente definibile di conformità al diritto, di eguaglianza al sistema delle forme stabilite, il formalismo, insomma, rappresenta la ragione d'essere d'ogni istituto dello Stato di diritto. Il formalismo giuridico dà forza di concetto e realtà di fatto storico allo Stato di diritto perché risponde a valori e detta schemi di comportamento generalmente accettati nell'attività giuridica dei soggetti pubblici e privati. I loro atti si identificano appieno col formalismo, coincidono con le forme in cui si esternano. E se è vero che tutta l'attività giuridica è essenzialmente attività di interpretazione, è costituita dall'infinita serie dei cicli interpretativi normativi posti in essere dagli operatori pubblici e privati, ebbene, essa si realizza nello Stato di diritto in un'infinita serie di giudizi di conformità al sistema delle forme del diritto. Attività giuridica, attività ermeneutica, formalismo giuridico, problema della conformità, principio di legalità, principio di legittimità, tendono dunque a ordinarsi in una serie di equivalenze. Nello Stato legislativo liberale spettò al principio di conformità legale fornire il criterio di verifica della validità del processo interpretativo e furono le categorie concettuali pandettistiche ad offrire gli strumenti più idonei per calcolare la misura della conformità al diritto dell'organizzazione soggettiva e dell'attività giuridica dei poteri pubblici e degli operatori privati. Una perfetta corrispondenza biunivoca legò assieme il principio di legalità formale dello Stato di diritto e il modellamento esclusivamente formale, la tecnicizzazione completa, la generalità, l'astrattezza, la fungibilità degli schemi pandettistici. In Germania e poi soprattutto in Italia, la pandettistica risultò il modello teorico storicamente più adeguato alla rappresentazione scientifica del principio di legalità e quindi del formalismo dello Stato di diritto. Se non ci fosse stato Windscheid, non ci sarebbe stato Cammeo, affermò Francesco Carnelutti. Ma senza Windscheid, senza l'ordine concettuale della pandettistica, non ci sarebbero stati nella scienza giuridica moderna, né i nuovi giuristi universitari specializzati nell'attività di ricerca scientifica nelle università, né il loro progetto di predominio sulle altre fonti del diritto, né gli strumenti scientifici che in Italia consentirono, in effetti, di realizzare quella prevalenza per oltre un cinquantennio. Non ci sarebbe stata la costruzione scientifica del sistema giuridico che accompagnò il processo di statizzazione del diritto negli stati nazionali a sovranità territoriale, che dette sostegno e sostanza teorica allo statalismo giuridico, al positivismo giuridico, alla nascita del diritto pubblico moderno e del diritto amministrativo come luogo del conflitto tra autorità pubblica e libertà privata, alla scissione gerarchica tra diritto pubblico e diritto privato, alla profonda ambivalenza del diritto pubblico in quanto arsenale di strumenti tecnici per l'affermazione delle forze politiche, rivestimento formale della serie infinita degli atti di imperio con cui i poteri pubblici si impongono alla società, ma anche, proprio perché rivestimento giuridico, forma giuridica del potere politico, vincolo di conformità legale, criterio di oggettivazione, limite del potere, possibilità di previsione, calcolo, conoscenza, controllo del suo operato da parte della società, presupposto dell'instaurazione di un contenzioso amministrativo o giurisdizionale e garanzia quindi di libertà e di diritti individuali e collettivi. In Italia, senza l'accoglimento della pandettistica, senza l'attività di interpretazione della giurisprudenza e l'elaborazione teorica dei nuovi giuristi universitari, non si sarebbe realizzato lo Stato liberale nelle forme in cui storicamente si avverò. Non si sarebbero attuati i concetti e gli istituti dello Stato di diritto liberale. Compiuta l'unità politica, furono i giudici e i nuovi giuristi universitari a inventare lo Stato di diritto, a tirare su dalle malsicure fondamenta politico-legislative l'edificio dello Stato giuridico nazionale. Furono le formule e gli istituti giuridici creati dalla giurisprudenza e dalla dottrina e costruiti in sistema dalla scienza giuridica pandettistica a supplire alla mancanza di tradizioni amministrative unitarie. Le forme giuridiche unificarono l'apparato amministrativo dello Stato e garantirono continuità e ordine all'azione di una burocrazia non sufficientemente compatta e consapevole del suo potere, come quella di altri paesi europei. La dottrina giuridica assunse il ruolo di diritto comune alle amministrazioni dello Stato, elaborò un corpus centrale di teorie del diritto amministrativo tendenzialmente comune alle varie branche dominate da legislazioni disparate, garantì l'interpretazione e l'applicazione della nuova legislazione statale secondo i medesimi schemi concettuali d'origine pandettistica, funse da tessuto connettivo dell'intero ordine giuridico nazionale. All'ordinamento accentrato del nuovo Stato borghese, all'accentramento politico, amministrativo e legislativo, corrispose l'uniformità del modello scientifico pandettistico civilistico e l'accentramento dottrinale della scienza giuridica nelle università, unificata in tutte le università del paese al di là di ogni ricorrente velleità di autonomia universitaria dal postulato della tecnicità della scienza, dallo specialismo e dal formalismo giuridico, dall'accoglimento da parte dei nuovi giuristi universitari del paradigma scientifico pandettistico e del progetto di alleanza della scienza con la legislazione. I giuristi universitari si proposero come garanti del controllo scientifico di legittimità dell'operato della giurisdizione e dell'amministrazione e custodi dei criteri tecnici non solo di attribuzione di significato ai comandi del legislatore, ma anche di riconoscimento della validità del diritto positivo, subordinato così ai risultati dell'interpretazione e costruzione scientifica. Ma di questo abbiamo detto in altri lavori sulla prolusione di Orlando. Conviene dunque seguire l'elaborazione e lo sviluppo dei concetti e delle teorie ad opera della dottrina, l'identità conservata oppure le trasformazioni e mutamenti subiti dai dogmi della pandettistica nel loro scorrimento trasversale da una disciplina giuridica all'altra per cogliere la funzione culturale da essi svolta nelle vicende politico-giuridiche dello Stato di diritto liberale in Italia. In questo nostro intervento abbiamo scelto di concentrare l'attenzione sul diritto amministrativo e ciò per tre ragioni. La prima è l'assenza di un codice nel diritto amministrativo che fa sì che gli istituti siano tutti frutto delle ricostruzioni della dottrina. Il diritto amministrativo risulta dunque un angolo visuale privilegiato per studiare la immediata valenza istituzionale dei concetti elaborati dalla scienza giuridica. La seconda ragione è che la dottrina tedesca ha sempre pensato lo Stato, e dunque anche lo Stato di diritto, a partire dall'amministrazione. E il suo insegnamento è stato seguito dai teorici italiani dello Stato di diritto e poi dello Stato amministrativo. La terza ragione, corollario della seconda, è che la teoria generale del diritto amministrativo fu elaborata negli ultimi decenni del secolo scorso come luogo specifico del conflitto tra autorità pubblica e libertà privata, come abbiamo già osservato, ed è quindi in grado di restituirci l'immagine perfettamente speculare dell'ideologia dello Stato di diritto. Nella teoria generale del diritto amministrativo, infine, accenneremo, se avremo tempo, in specie all'avvio della costruzione dell'atto amministrativo, l'istituto in cui più perspicuamente è possibile osservare. Stato di diritto liberale. Se noi studiamo la storia dell'analisi giuridica nella nuova scienza del diritto amministrativo italiano tra 800 e 900, possiamo osservare che la struttura portante di tutte le qualificazioni giuridiche è il soggettivismo formale. Le figure della scienza del diritto amministrativo si basano sullo schema teorico del soggettivismo formale come su una comune struttura fondativa. Con la ricezione della pandettistica nella scienza giuridica italiana, il nucleo teorico fondamentale della dogmatica pandettistica, das rex subiect, il concetto di individuo creatore con la sua volontà del mondo del diritto, era diventato la struttura costitutiva dell'analisi in ogni disciplina giuridica, trasmutandosi in un polivalente soggettivismo del tutto formalizzato, tecnicizzato, ideologicamente reversibile, mimetico, funzionale a differenti principi di ogni settore del diritto. L'individuo delle categorie romanistiche si era trasfigurato nel soggetto formale, privato o pubblico, uomo o entità astratta, persona fisica o giuridica, che agiva in tutti i nuovi rami giuridici via via spuntati dal vecchio tronco del diritto civile ed era ritratto nelle nuove discipline che venivano a formare attorno all'antica romanistica civilistica il sistema della scienza giuridica moderna. E in ogni disciplina il soggettivismo formale esercitava un'influenza decisiva perché rispondeva alle medesime ragioni del formalismo giuridico. Appariva funzionale al rafforzamento del principio cardine dello Stato di diritto, del principio di conformità legale dell'attività giuridica. Nella dottrina amministrativa della penisola fu l'elaborazione concettuale del processo amministrativo la vicenda teorica ove vennero a congiungersi soggettivismo e formalismo giuridico. La pandettistica italiana formulò le categorie della nuova scienza amministrativa soprattutto a partire cronologicamente e logicamente dall'istituzione nel 1889 della giurisdizione generale di legittimità della quarta sezione del Consiglio di Stato. Gli anni della ricezione della pandettistica nella dottrina amministrativa italiana coincisero infatti con quelli della creazione dei nuovi istituti della giustizia amministrativa che perpetuarono la peculiare distinzione tra diritti e interessi e formarono il nucleo della grande riforma crispina delle pubbliche amministrazioni. Il giudizio amministrativo di legittimità di atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, il dettato dell'articolo 24, costituì il luogo privilegiato del connubio tra il soggettivismo formale e il principio di legalità formale. Nel giudizio di legittimità, soggettivismo e formalismo giuridico furono saldati assieme e potenziati a vicenda dallo stesso oggetto del giudizio, dalla qualificazione autoritativa del provvedimento amministrativo. La giurisdizione amministrativa di legittimità risultò l'accertamento obiettivo della conformità legale di un atto la cui speciale qualifica di imperatività, attribuitagli dalla giurisprudenza, derivava, inventata dalla giurisprudenza, derivava dalla qualifica soggettiva di pubblica autorità dell'autore dell'atto. I caratteri sostanziali dell'atto amministrativo, formulati dalla giurisprudenza, accolti ed elaborati poi dalla dottrina, l'imperatività, col suo contenuto di degradazione dei diritti, di esecutività e di inoppugnabilità, e il suo collegamento con l'autotutela, manifestavano la posizione soggettiva sovraordinata dell'amministrazione pubblica rispetto a quella del privato. Perché volta, per definizione perfettamente circolare, tautologica, alla tutela dell'interesse pubblico. E assieme, reciprocamente, concorrevano a determinare i caratteri della stessa amministrazione pubblica come autorità. In questo andirivieni definitorio dall'atto al soggetto e viceversa, l'atto predicava la qualificazione giuridica autoritativa dei soggetti come apparati di organi che producevano atti e trasferivano sul piano dell'azione l'idea della persona giuridica dello Stato. La scomparsa dell'amministrazione come fenomeno burocratico dietro la totalitaria onnipresenza del giuridico ne fu un corollario. In breve, la provenienza soggettiva degli atti amministrativi ne determinò la qualificazione autoritativa e questa, in maniera circolare, definì i caratteri dei soggetti pubblici autori degli atti e attribuì al giudice amministrativo la competenza ad accertare la conformità legale dei provvedimenti. Ma la qualifica imperativa del provvedimento amministrativo provocò anche la completa formalizzazione del processo amministrativo. L'oggetto del giudizio, il provvedimento amministrativo, impose la logica del proprio carattere imperativo non solo all'intero corpo delle norme sostanziali generali del diritto amministrativo, cioè degli atti e dei procedimenti amministrativi, ma anche al sistema della giustizia amministrativa. Come la legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo aveva condensato i principi informatori di tutta la legislazione amministrativa del 1865, così il giudizio amministrativo di legittimità del provvedimento amministrativo conformò a sé i giudizi di merito e di esclusività. E le due leggi, assieme sulla giustizia amministrativa del 1865 e del 1889, l'intera legislazione successiva. La progressiva formalizzazione del giudizio amministrativo derivò necessariamente dal suo carattere di accertamento della conformità legale dell'atto amministrativo. Il problema della validità dell'atto venne a coincidere con la forma dell'atto. La teoria dello Stato liberale legislativo, dell'amministrazione come potere esecutivo di leggi e dell'atto amministrativo come provvedimento esecutivo di leggi, il principio di legalità, insomma, implicava la riduzione del giudizio di legittimità a verifica sempre più formale dell'atto, a mero confronto di corrispondenza tra forma del provvedimento esecutivo e legge. Il giudizio amministrativo di legittimità divenne così l'istituto per eccellenza del formalismo giuridico, in quanto definizione del principio di legalità nei rapporti tra libertà dei cittadini e autorità amministrativa. ma le garanzie individuali prestate ai cittadini dal giudizio di legittimità risposero perfettamente al genere di tutela ad essi assicurata dal principio di legalità formale in ogni altro istituto dell'ordinamento giuridico liberale. Quella che nei terribili anni a venire doveva nostalgicamente apparire come la sicurezza del mondo di ieri, il riferimento ovviamente al libro di Stefan Zweig, non era stato che il prodotto del principio di legalità, del formalismo giuridico. Fu il formalismo giuridico, il principio di conformità legale dell'attività giuridica nei rapporti tra soggetti privati e tra il cittadino pubblico e Stato, a fare del mondo di ieri il mondo della sicurezza. Certo, i cittadini dello Stato di diritto liberale erano garantiti in quanto individui subordinati allo Stato. La conformazione e l'attribuzione dei diritti individuali si faceva dipendere dallo Stato. I diritti erano collegati alla sudditanza, le pretese individuali al riconoscimento della sovranità. Ma se le forme di quel sistema giuridico espressero una condizione di sudditanza formalmente garantita e crearono una più forte legittimazione giuridica del potere politico, esse costituirono anche per il cittadino pretese garantite verso lo Stato e una ragionevole controllabilità storicamente progressiva del potere pubblico. Il formalismo rappresentò la garanzia della certezza del diritto per tutti i rapporti pubblici e privati degli individui che vissero nel mondo di ieri. Formalismo giuridico e soggettivismo costituirono una tutela storica reale della soggettività individuale, della persona umana, sia come uomo privato, sia come cittadino pubblico, nei confronti dei pubblici poteri nello Stato di diritto liberale. Il giudizio amministrativo di legittimità appare dunque il nucleo più interno e dotato di maggiore forza produttiva di tutto il sistema del diritto amministrativo. Muovendo da esso, l'ermeneutica giurisprudenziale e quella dottrinale hanno formulato una sequenza circolare di equazioni che hanno poi svolto in ogni direzione a partire da ciascuno dei termini che la compongono, tra giurisdizione amministrativa di legittimità, atto amministrativo imperativo, soggettivismo formale, formalismo, principio di legalità e Stato di diritto liberale. Essa ha costituito il nucleo genetico del sistema del diritto amministrativo, scandito dalla dottrina secondo lo schema soggettivistico della pandettistica das Rechts Subjekt, di Rechts Geschäft, nei principi dello Stato soggetto persona giuridica, titolare di una peculiare capacità d'agire, la sovranità, i cui strumenti gli organi la esercitano nella forma di atti imperativi, esecutivi di legge, secondo valutazioni informate ad un criterio di discrezionalità, sicché i privati cui pertengono gli interessi legittimi coinvolti nell'azione amministrativa possono adire la giustizia amministrativa per chiedere l'accertamento della conformità dell'atto amministrativo, per domandare al giudice amministrativo di accertare se eventuali vizi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge abbiano inficiato l'esercizio del potere discrezionale delle pubbliche autorità amministrative. Di questa costruzione, fatta tutta di elaborazioni concettuali, che ha supplito all'assenza di norme sostanziali sugli atti e i procedimenti amministrativi e all'incertezza delle leggi sul processo amministrativo, la storia della costruzione dell'atto è gran parte. È la vicenda esemplare dell'attività interpretativa dottrinale dei risultati della giurisprudenza sviluppatasi con un processo lineare di accumulazione di nozioni sulla base comune di una precomprensione teorica soggettivistica di impianto pandettistico. Una vicenda che si è svolta intorno a un concetto e a un fatto, l'atto amministrativo, in cui, come è stato scritto, confluivano tutti gli elementi componenti lo Stato liberale. Si annullavano, salvo a risorgere altrove, tutte le contraddizioni del medesimo. E le stesse finalità liberali garantiste della teoria parevano giustificare l'elaborazione anche dei caratteri illiberali e autoritari dell'istituto. la formulazione della teoria dell'arte amministrativo mostra la capacità della nuova scienza giuridica universitaria di rielaborare gli enunciati della giurisprudenza e le farraginose disposizioni legislative per esercitare un ruolo di direzione teorica nei confronti della pratica giurisprudenziale amministrativa e della stessa legislazione, con perfetta idoneità a interpretare criticamente i fenomeni di trasformazione dello Stato di diritto in Stato amministrativo. L'atto amministrativo parve alla scienza giuridica italiana di fine secolo lo strumento di attuazione della legalità nell'esercizio del potere amministrativo. Sembrò idoneo a fissare con certezza ambiti oggettivi e soggettivi di incidenza delle attività delle pubbliche amministrazioni e a costituire l'oggetto della verifica giurisdizionale della loro legittimità. Il concetto di atto amministrativo venne così a saldare insieme fino a farli coincidere agli occhi della nuova dottrina universitaria Stato di diritto e Stato legale. Certo, i tre principi istituzionali in cui si suole riassumere il contenuto dello Stato di diritto, la separazione dei poteri, il principio di legalità dell'azione amministrativa, il principio tendenziale di azionabilità delle pretese del cittadino nei confronti dell'amministrazione, non produssero storicamente da soli l'atto amministrativo. Si limitarono a determinarne taluni caratteri positivi. La figura dell'atto amministrativo fu accolta soltanto nei paesi ove esisteva una tradizione di procedimenti, di precedenti, scusate, ordinamenti generali positivi del tipo ad atto del principe. Ma la nuova dottrina giuridica italiana, esso sembrò derivare direttamente dai principi dello Stato di diritto e in specie dal principio di legalità, dalla subordinazione dell'attività amministrativa alla legge. Nella grande monografia sulle autorizzazioni e concessioni amministrative, con cui Oreste Ranelletti dette avvio in Italia alla costruzione della teoria degli atti amministrativi, la definizione del rapporto tra l'atto di autorizzazione e concessione e la legge è parte essenziale della definizione del concetto di autorizzazione e concessione amministrativa. È la qualificazione legale che inserisce l'atto amministrativo di autorizzazione e concessione nella sequenza degli istituti del nuovo sistema del diritto amministrativo e consente di farli convergere tutti nella soluzione delle questioni poste dalle autorizzazioni e concessioni amministrative. Per costruire la loro teoria vennero mobilitati, utilizzati da Ranelletti, la definizione dei diritti privati soggettivi e dei diritti pubblici soggettivi, la nozione della discrezionalità amministrativa, la distinzione tra diritti e interessi legittimi, il confronto tra la competenza del giudice ordinario e di quella amministrativa e così via enumerando. Ma al di là dell'impiego di singoli istituti e nozioni, erano il possesso e l'utilizzazione dell'intero ordine concettuale pandettistico che consentirono a Ranelletti la costruzione della teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. E lo sviluppo successivo della riflessione sull'atto amministrativo e sui rapporti tra diritto pubblico e diritto privato, consegnata ad una serie di saggi che accompagnarono fino allo scoppio della Grande Guerra il primo affermarsi in Italia dello Stato amministrativo. A suoi occhi la materia da togliere al vecchio diritto civile e affidare al nuovo diritto pubblico amministrativo si dilatava tanto quanto cresceva l'intervento dello Stato nella società. L'ampliamento dell'attività statale era seguito di pari passo dall'estensione del diritto pubblico. Ma se poi noi andiamo ad analizzare i criteri di attuazione, modelli di riferimento impiegati da Ranelletti per la ideazione e la legittimazione dei nuovi istituti del diritto amministrativo, li ritroviamo sempre nei principi della tradizione romanistico-civilistica. Ora, io ho sviluppato un'analisi, ovviamente vi risparmio, dei lavori di Ranelletti sulle concessioni e autorizzazioni e di tutta la sua elaborazione successiva intorno all'atto amministrativo. Vi è una dottrina prevalente, soprattutto a partire dal libro del D'Alberti sulle concessioni amministrative, che riduce l'influenza dei principi, delle forme, delle categorie, della romanistica civilistica, della pandettistica, sulla costruzione dell'atto, soprattutto a una influenza terminologica, a una mera questione stilistica. A mio parere le cose non stanno così. Alla fine di questa analisi minuta in cui ho controllato il trasporto, la trasposizione e poi però il funzionamento interno di figure, di istituti, di principi privatistici nella costruzione di questi nuovi istituti di diritto pubblico, a mio parere il risultato che ne viene è una incidenza diretta del contenuto degli istituti stessi, una plasmazione proprio dall'interno del nuovo diritto pubblico sul modello privatistico, sul modello delle categorie romanistico-civilistico. Tutto questo ha implicazioni, ed è questo che io vorrei ora molto rapidamente dirvi in queste ultime due paginette, nella anche concezione dello statalismo di questi giuristi. Si dice lo statalismo come contrapposto al modello privatistico, codicistico. Ebbene, a mio parere, e quello che sto per dirvi, questo statalismo è uno statalismo perfettamente privatistico, è un modello statalistico costruito perfettamente sulle categorie romanistico-civilistiche, sulle categorie privatistiche, il che implica non solo tutela, ecco qui l'ambivalenza di cui ti parlavo ieri, parlo a te Umberto Legretti, del privatismo economico che mi sembra nella tua opera e del privatismo in genere. Tu delimiti fortemente e schiacci fortemente sul problema del privatismo economico. Ecco, a mio parere è più ampio, è anche la tutela delle libertà, degli spazi di libertà, con tutto anche la valenza di garantismo che questo comporta. Comunque, rapidamente, per dirvi, concludo ora, ovviamente qui vi sono degli snodi che sono assolutamente saltati, ad esempio nello Stato amministrativo, per inciso, Stato amministrativo che per Ranelletti non si sostituiva allo Stato di diritto, si fondeva, era... lo Stato di diritto rimaneva saldamente giuridico, Stato di diritto sottoposto al diritto e dal diritto regolato e limitato, Stato amministrativo sottoposto al diritto e dal diritto. Dunque, nello Stato amministrativo le nozioni di libera attività, di potere discrezionale dell'amministrazione pubblica e dell'atto amministrativo, quale manifestazione di quella libera attività ed esercizio di quel potere discrezionale all'interno dei confini segnati dalla legge, erano derivati conseguenziariamente dai concetti di libertà giuridica individuale e di coesistenza di limiti imposti dallo Stato all'esplicazione delle libere attività dei singoli soggetti giuridici. Il potere discrezionale si saldava all'atto amministrativo, ne diventava un elemento strutturale in perfetta coerenza con i principi individualistici e soggettivistici della tradizione giusprivatistica. Purtroppo a voi questo suona come una cosa, come un assunto che io non ho dimostrato, ma ripeto, dovete fare un atto di fede quando usciranno queste cose, spero che, di poter portare anche le pezze di appoggio. Il libero esercizio dell'attività dell'autorità amministrativa, ecco però alcuni elementi qui che vengono, andava tutelato entro i confini fissati dalla legge, come quello dei privati. Dentro la sfera del limite giuridico, scriveva Ranelletti, l'amministrazione trova il solo limite, la sola norma della sua azione nei criteri di convenienza e di opportunità amministrativa, cioè della sua convenienza ed opportunità del suo agire per il migliore raggiungimento del suo scopo, che è quello del bene generale della società e dello Stato. Questo presuppone purtroppo, comunque, a garanzia, interessante, punto interessante spero, a garanzia della libera esplicazione dell'attività amministrativa, Ranelletti invocava lo stesso articolo 4 delle disposizioni preliminari al codice civile. Il canone dell'interpretazione restrittiva delle leggi penali e di quelle che restringono il libero esercizio dei diritti privati, dei diritti dei soggetti individuali. Privati, e rendeva così un'altra testimonianza di quanto fortemente avvertisse il senso del collegamento tra le normative, uno dei tratti metodologici di base della pandettistica che affluiva alla problematica dell'unità del diritto. le fondamenta del nuovo diritto pubblico speciale venivano gettate sui principi costitutivi del diritto civile comune. Come questi erano posti a garanzia della libertà degli individui e delle loro attività, quelle erano messe a sostegno della libera attività delle amministrazioni pubbliche. Ancora una volta le categorie civilistiche passavano dal diritto privato al pubblico per essere impiegate come materiali da costruzione del nuovo diritto amministrativo. Il nuovo diritto pubblico speciale amministrativo non sorgeva come un diritto autoreferenziale, centrato in sé, autonomo, ma legittimava teoricamente e idealmente le sue forme e i suoi contenuti invocando i principi e i valori propri dell'ordinamento giuridico dei privati, tramandati dalla tradizione romanistico-civilistica. Se lo statalismo della scienza giuridica italiana faceva formulare a Ranelletti il noto enunciato che il punto logico di partenza non è la libertà, ma lo Stato, era però nei confronti dello Stato creatore del diritto di libertà, tutelatore di ogni libertà, che veniva recitata la professione di fede statualistica. La natura di siffatta libertà era determinata sia per l'individuo che per lo Stato dalla nozione della libertà privata propria della tradizione civilistica. Il suo esercizio doveva svolgersi entro i confini segnati dal diritto, e qui cito Ranelletti, secondo la legge dell'uguale libertà contenuta nella formula della giustizia, cioè secondo il dettato della vecchia dignità kantiana. Spettava allo Stato il compito di intervenire nella società e di attuare la formula della giustizia. L'inadempimento di quell'obbligo da parte dell'amministrazione pubblica e del potere legislativo parve a Ranelletti, nel travaglio della gravissima crisi di fine secolo dello Stato liberale, non lasciare altra speranza di edificare in Italia lo Stato moderno, libero, e di garantire in esso la libertà civile, che l'accoglimento delle tesi del sonniniano torniamo allo statuto. La riforma del Parlamento, il ritorno alla prerogativa regia, dovevano servire a tutelare l'armonia tra le libertà dell'individuo, della società e del nuovo Stato amministrativo. La libertà degli individui privati costituì la giustificazione ideale e il modello teorico dello statalismo dei giuristi anche nelle più travagliate vicende che accompagnarono il tramonto del mondo di ieri. Grazie.